Ok, l'altra volta abbiamo, durante il seminario, abbiamo detto una cosa importante, che oggi riprendo. Allora, la differenza degli animali, per diventare chi siamo veramente, abbiamo bisogno di essere visti da qualcuno. Cioè io, per capire la mia qualità interiore, per capire i miei sentimenti, è importante, è indispensabile che qualcun altro, chi mi educa, i miei genitori, mi vedano, mi riconoscano, mi rispettano. Solo ciò che è stato visto e rispettato di me sono in grado di vederlo e rispettarlo. È chiaro questo? Quindi se non è stata vista il mio desiderio di affetto, ma è stato visto solo la mia prepotenza, io il mio desiderio di affetto non lo vedrò. E vedrò soltanto che io sono un essere prepotente. Sì, però poi è responsabilità dell'adulto. Esattamente. Del bambino, sì, però l'adulto poi vedrà. Alla fine un principio di responsabilità è vedere questo. Certo. Altrimenti... E certo, chiaro. Ma l'adulto può imparare a vedere ciò che non ha visto da bambino se non è mai visto da nessuno. Ci vuole un po' di inizio. Allora credo che chi aiuta, chi vuole fare una pratica d'aiuto, deve svolgere questa funzione. Una persona non si riesce a vedere perché può vedere di se stesso ciò che è stato visto. Un terapeuta, un counselor, un educatore, un insegnante, qualunque persona sia in grado di vedere questa parte bella della persona, può costituire aiuto, perché se ha rapporto intenso, naturalmente, perché dopo un po' un'altra persona ce la portiamo dentro. Se questa persona ci ha visto i nostri sentimenti, ecco lì che possiamo imparare a vederci con i suoi occhi. In fondo quello che fate voi in musicoterapia, il bambino si vede con gli occhi autopersecutori, per cui rimane dei bisogni secondari distruttivi. Quando voi fate questo lavoro nel gioco, lui comincia a vedersi attraverso i vostri occhi. E attraverso i vostri occhi lui si vede con un bambino completamente diverso. Prima non può che detestarsi, e dopo può cominciare ad amarsi. Questo è il passaggio. Compresi i genitori. Compresi i genitori che vedono bambini in modo nuovo. Da quello che ci siamo detti, per capire noi stessi, capire davvero noi stessi, un'altra volta, dobbiamo comprendere il ruolo che ha svolto dentro di noi, come l'hai chiamata tu, l'autorità interessata, cioè quella forma che abbiamo chiamato anche nazifascismo, quella forma di prevaricazione che abbiamo interiorizzato e che ha generato per contrapposizione lo sviluppo del narcisismo, ma molto forte anche a volte. Allora, se questo è l'ego, questo è il narcisismo, dentro il narcisismo ci sono le forze irriducibili. Cosa significa? Faccio un esempio. Quando l'America vuole contrastare l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica era impegnata nella guerra in Afghanistan, cosa fecero gli americani? Finanziarono i mujahideen, li armarono. Quando la guerra in Afghanistan finì, questi erano diventati terroristi, e a un certo punto la storia la conosciamo. Una volta che è armato di terroristi, dopo sono terroristi. E quando l'America ha detto no, adesso basta, ecco lì come è finita con l'11 settembre. Quando noi al nostro interno armiamo le forze del narcisismo per contrastare il mondo esterno, stiamo armando delle forze che possono diventare demoniache, cioè veramente furibonde. La rabbia narcisistica, la rabbia senza fine. Il nucleo del narcisismo è la rabbia narcisistica. capire la rabbia narcisistica, capire una rabbia che non ha soluzione, è sempre irreversibile, non finisce mai. Allora, ci siamo detti l'altra volta, noi dobbiamo fare un passaggio, prenderci tutte le responsabilità come governo, cioè tutto quello che abbiamo compiuto. Ricordo che molto brevemente appena abbiamo fatto così. Questa è la propaganda esterna che arriva sulla nostra personalità. Dopo un po' questa propaganda esterna ha un rappresentante interno che fa questo. Qui ci abbiamo un io, governo. La propaganda interna è molto potente sulle parti più piccole sono, sui bambini, potentissima, sugli adolescenti, potentissima. Ma mentre i bambini subiscono di più, gli adolescenti si ribellano. Questa ribellione narcisistica ed è distruttiva. Quindi l'adolescente diventa pigro, disordinato. Disinteressato, tutto, apatico. È freghista, non importa niente degli altri. Diventa arrogante, presuntuoso. Ha sempre ragione lui. Non puoi confrontarlo, cioè, tutte queste adorabili manifestazioni. Attraverso questo insieme di caratteristiche trova molto piacere perché ha potere sull'ambiente, può ricattare, fa quello che vuole, almeno un ambiente familiare ci riesce di solito. Quindi esercizio di potere e piacere. Allora, cosa dovrà fare il mio governo? Ci siamo detti l'altra volta. Il mio governo prende le sue responsabilità. Quali? Quello di aver lasciato agire la propaganda sui bambini. Per cui i bambini hanno fatto questo, hanno dovuto... Questo è un tradimento delle parti piccole. Ma aver lasciato agire la propaganda anche su queste parti un po' meno piccole. Per cui, in conseguenza dell'essere esposte a questa propaganda, hanno sviluppato la distruttività. E questo vi ricordate, vi ho chiesto proprio di scrivere delle lettere precise a queste parti, inoltre anche a tutti gli adulti che c'erano nel paese, perché gli adulti in un paese così cosa possono fare di fronte a adolescenti che non fanno che ribellarsi? È difficile condurre la propria personalità. Okay. Oggi volevo aggiungere una cosa importante. Ci sono una parte dei ribelli che sono diventati come dei terroristi. Adesso non ci sono più questa propaganda qua distruttiva, ma c'è anche questa. Qui abbiamo una croce uccinata e qui ce ne abbiamo un'altra. Allora il nostro paese è in balia di due forze distruttive entrambe che combattono tra di loro a livello mortale. Perché io prima sono soggetto a un'autorità distruttiva, la interiorizzo e agisco con quella. Dentro di me si crea una ribellione che è altrettanto forte, dopodiché sono in croce. Allora cosa vi dovete aspettare? Che quando il governo prende responsabilità e riesce a fare una propaganda che immunizza queste parti dalla propaganda nazista, dovete tenere conto che ce n'è anche un'altra, che è quella della ribellione senza fine. C'è la guerra civile. Esatto, c'è la guerra civile. Quando è finita la seconda guerra mondiale in Italia, i partigiani sono potuti scendere a valle, cioè, ma non è che la guerra stava iniziando una vera e propria guerra civile. Non ci è voluto niente che potesse scoppiare tutto. Per cui alcuni partigiani hanno compiuto delle azioni ignobili, andando a uccidere persone del tutto innocenti che non c'entravano nulla. Ecco, quindi queste forze bisogna sapere che esistono.